Potete però anche scrivere a Radio Capodistria, via OF15. Questa è Radio Capodistria. Viaggiando, la situazione del traffico in tempo reale. Un cordiale saluto da Andrea Adrenelongo. Al momento in A4 sull'intera tratta Trieste-Brescia il traffico permane scorrevole. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattarci 24 ore su 24 al numero 89 24 89. Da Viaggiando per ora è tutto. Buon viaggio. Viaggiando, il servizio di infomobilità del Nord-Est. Finestra sul Friuli Venezia Giulia. Una trasmissione di Mauro Missana. Alla nuova edizione di Finestra sul Friuli Venezia Giulia, un saluto da parte di Mauro Missana, un grazie naturalmente anche al settore tecnico che sta lavorando alacremente per portare avanti questa trasmissione, ma soprattutto oggi parleremo di quel che sta succedendo nel mondo politico.